ferma quando ti dico, ferma quando ti dico due parole. Poi ritornella, ferma quando ti dico due parole. Corriai e torillo, corriai e torillo, sospira ma. Poi ritornella, corriai e torillo, sospira ma. E pidrisi mi risponda, e pidrisi mi risponda, lo mio bene. Poi ritornella, e pidrisi mi risponda, lo mio bene. Non mi rispondano, non mi rispondano, è troppo lontano. Poi ritornella, non mi rispondano, è troppo lontano. E sotto la briscura, e sotto la briscura, chi sta dormendo? E ritornella, e sotto la briscura, chi sta dormendo? O si ripiglia più, o si ripiglia più, lo chiamo all'occhio. E ritornella, o si ripiglia più, lo chiamo all'occhio. Si stui all'occhielli, si stui all'occhielli, passando già. Poi ritornella, si stui all'occhielli, passando già. Pignalo mucca duro, pignalo mucca duro, lo vai al lavo. Poi ritornella, pignalo mucca duro, lo vai al lavo. Poi di lo spannolo, poi di lo spannolo per un denaro. Poi ritornella, poi di lo spannolo per un denaro. Poi di lo mannanna, poi di lo mannanna pula stira. Poi ritornella, poi di lo mannanna pula stirare. Poi di Luca Gialla, poi di Luca Gialla, la pulita. Poi ritornella, poi di Luca Gialla, la pulitana. Poi di Lumannucco, poi di Lumannucco, vento a portare. Poi ritornella, poi di Lumannucco, vento a portare. Ventù va porta cielo, ventù va porta cielo, allo mio bene. Poi ritornella, ventù va porta cielo, allo mio bene. Mera venuti cada, mera venuti cada per sopra ma. Poi ritornella, mera venuti cada per sopra ma. Caperta di sigilli, caperta di sigilli, oggi sto